demagogia pura, ribaltamento totale della realtà. I quattro governi nei cinque anni precedenti della sinistra avevano messo in circolo 7 miliardi di euro per opere pubbliche. Noi ne abbiamo ad oggi messi in circolo 51 miliardi di euro, con il prossimo CIPE arriveranno a 73 miliardi. Significa che noi abbiamo fatto esattamente 10 volte quello che hanno fatto i governi della sinistra. I cantieri aperti non sono piccoli cantieri, sono i più grandi cantieri del mondo. La sinistra farà esattamente il contrario, non andrà al governo, non vincerà le elezioni, ma se per sfortuna dell'Italia dovesse vincere le elezioni, non potrà fare nulla perché si troverà a dover fare i conti con quel 20% della sua coalizione che è costituito da Rifondazione Comunista, dai comunisti italiani, dai Verdi, dai No Global, dai centri civici eccetera, dai centri sociali eccetera, i quali sono pregiudizialmente contro tutte le opere di modernizzazione del paese.